compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Malesia con Nicoletta Bortolotti. Si dice Malesia e si pensa subito a Sandokan. Quanti hanno viaggiato con Salgari in questa terra magnifica? E oggi lo facciamo in compagnia di Nicoletta Bortolotti, che prima di scortarci fin là però, per introdurci al suo modo di viaggiare e di scrivere, ci vuole far fare un giro in treno. Dicevo, il tema del viaggio è presente perché io scrivo principalmente in treno, per cui per me il treno è la mia casa viaggiante dove scrivo e dove tutto sommato riesco anche ad avere abbastanza concentrazione. Sembra paradossale, ma a volte in mezzo alla gente, al vociare, agli altoparlanti che annunciano le fermate, si riesce a scrivere. Anche l'idea di avere quel ritaglio di tempo, diciamo, predeterminato, aiuta anche a essere veloci nella scrittura, a non disperdersi e ad avere maggiore concentrazione. Il treno come luogo di ispirazione ci sta, forse un po' per comodità, per non perdere tempo negli spostamenti, visto che Nicoletta fa la pendolare, ma anche un po' perché dal finestrino passano immagini, come sulla pellicola di un film, e l'immaginazione è sollecitata dallo scorrere geografico. Ecco, dicevo, il viaggio, soprattutto nel romanzo E qualcosa rimane, è un po' un viaggio reale nello spazio, un viaggio in avanti, perché le sorelle fanno weekend a Sestri Levante, prendendo proprio il treno. E però è un viaggio interiore nel tempo, un viaggio all'indietro, perché le sorelle vanno alla ricerca di un passato dove ci sono ancora ferite, rancori, malintesi, sentimenti inespressi che devono uscire alla luce del sole, devono essere sanati per riuscire a tornare a casa. Cioè, la casa è poi la casa interiore, la nostra vera identità. A questo punto le chiedo di leggermi qualche estratto del libro. Voglio sentire quanto il treno come mezzo di trasporto, sia geografico che emotivo, sia entrato nella sua scrittura. Io e te in treno percorriamo la pianura che nelle prime colline anticipa l'Appennino. Il mare è appena un desiderio, un bambino nella pancia della terra, coperta di viti e cipressi. Siamo sedute dalla stessa parte dello scompartimento. Guardi fuori dal finestrino e io guardo il contorno familiare della tua testa. Capelli. Con gli anni cambiano il taglio, il colore e la consistenza, ma la forma che imprimono alla testa è immutabile. Sono i tuoi capelli ora a dirmi che sei proprio tu. Mi sembra di sentire l'odore dei sedili in similpelle e lo associo all'agrodolce della malinconia che descrive Nicoletta. Guardo anch'io dal finestrino e per una volta cerco di godermi lo spettacolo che passa, invece di concentrarmi sulla scritta in quattro lingue diverse che vieta di gettare alcun oggetto. La magia è questione di prospettiva. Sì, il treno è vero, è un luogo anche, cioè paradossalmente è un luogo tra due luoghi, ma è un luogo in cui si può immaginare tanto, perché poi è come un momento in cui sei costretta per forza a stare ferma, cioè anche se il treno si muove, però tu sei ferma. Per cui allora capita che o mi porto il computerino, per cui ho i quadernini e mi metto a scrivere, oppure semplicemente leggo, oppure guardo fuori e lascio vagare l'immaginazione. Ed è proprio in quei momenti di vuoto che alla fine vengono, credo, le intuizioni migliori, che si sblocca la creatività di tutte le persone. E sì, spesso immagino, ma sarebbe bello se invece di essere a Bollate Nord o Quarto Giaro fossi, non so, in Messico piuttosto che in Honduras, ecco, cioè sicuramente, ecco, è un viaggio, come dire, tra virgolette, che sembra brutto, perché brutto esteticamente, cioè perché non è che, insomma, il paesaggio è quello che è, però a volte proprio da anche questa bruttezza di questo paesaggio ha una sua poesia, una sua bellezza, ecco. Incontrarvi seduti sopra quel treno, tutti e quattro avevate 20 anni in meno, come in fondo ad un buco che dà nel tempo, e cercare incollando paura e amore una scusa qualunque per non parlare, se mi guardano in faccia che ti racconto. Lasciamo per un attimo il treno con il suo ritmico incedere nell'immaginazione e nella pianura padana, visto che Nicoletta lo usa come pendolare verso Milano, e passiamo alla meta del viaggio di oggi. Se devo parlare di un viaggio che è proprio il viaggio che mi è rimasto nel cuore, che devo dire ancora adesso a distanza di anni ci penso, a volte rivivo proprio nel sogno, nella memoria questa esperienza, è stato un viaggio in Malesia. Veramente uno di quei viaggi che ti cambiano dentro. Nome: Malesia. Forma di governo: monarchia costituzionale. Capitale: Kuala Lumpur. Popolazione: circa 30 milioni. Lingua: malese, inglese. Confini: la Malesia occidentale confina a nord con la Thailandia e a sud con Singapore. La Malesia orientale confina a sud con l'Indonesia e circonda il Brunei. Clima: il clima malese è di tipo equatoriale, con temperature elevate, debolissima escursione termica annuale, giornaliera 6-7 gradi in media e precipitazioni abbondanti. Religione: le religioni professate in Malesia sono l'Islam 53%, il Buddismo 17%, l'Induismo 7%, il Cristianesimo 6,4%. La religione di Stato è l'Islam. La Costituzione malese garantisce la libertà di religione. Allora trasferiamoci dallo sbiadito scompartimento del treno all'aria esotica della Malesia. E quanto ci racconterà Nicoletta non solo è impresso nei suoi ricordi, ma è stato anche minuziosamente documentato su carta. E tra l'altro ho ritrovato un taccuino che avevo scritto, ma veramente tanti anni fa, un quadernetto, dove proprio rileggendolo ho rivissuto le emozioni di allora. Tra l'altro c'era proprio scritto quaderno acquistato alla metropolitana di Singapore, no? Sono quei ricordi, insomma, che magari tante persone hanno. E io della Malesia sapevo quello la Malesia la conoscevo soprattutto dai libri di Salgari che poi e dal film Sandokan con Kabir Bedi, che poi Salgari non è mai stato in quei posti. Lui sì che viaggiò in una stanza, viaggiò con l'immaginazione. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Malesia con Nicoletta Bortolotti. Nicoletta Bortolotti ha ritrovato il taccuino che anni fa ha scritto durante un viaggio in Malesia e ora sta ripercorrendo insieme a noi quell'esperienza che le è rimasta particolarmente nel cuore e in qualche modo le ha cambiato la vita. E devo dire che l'elemento più forte di questo viaggio sicuramente è stato andare nella giungla, cioè l'esperienza della giungla, che è veramente un'esperienza totale. E a volte quando si consiglia quando si è agitati prima di dormire eccetera di pensare a un posto dove rifugiarsi, dove recuperare le proprie radici, e io penso veramente a quella foresta con quegli alberi enormi, quelle radici intricatissime che parlavano della terra, parlavano dell'energia, della profondità proprio degli esseri. Una foresta dove recuperare le forze anche solo pensandola. Che potere deve avere? Dopo esserci rigenerati, trasferiamoci in città. Ma partendo dall'inizio, posso dire che mi ha colpito moltissimo la città di Singapore, che è chiamata la Svizzera d'Oriente, perché è una città che ha un grado di civiltà altissimo. C'è un contrasto fra modernità e tradizione molto forte, si possono vedere, cioè sembra New York, quindi si vedono grattacieli altissimi eccetera, con la giungla che tenta di impadronirsi del cemento, per cui con dei ficus giganteschi abbarbicati ai ai grattacieli, e con accanto a questi immensi blocchi di cemento ci sono le case tradizionali del quartiere cinese, il mercatino del quartiere indiano, i vicoli del quartiere musulmano. Nicoletta prosegue e mi racconta che Singapore è veramente un gioiello di civiltà, perché è uno dei pochi punti del mondo dove le civiltà indiana, cattolica, musulmana e cinese convivono pacificamente. Le donne possono andare in giro di notte senza che accadano crimini, stupri, omicidi. C'è una metropolitana avveniristica, cioè con una specie di, come dire, di protezione di plastica, come se la metropolitana passasse dentro un tubo per evitare i suicidi, per fare un esempio. E davvero le ragazze vanno in giro in minigonna, hanno tutti gli ombrellino parasole, ed è una città molto bella. Singapore sembra proprio una città a misura di donna. Del resto, dalla Svizzera d'Oriente non ci si poteva aspettare altro. Dopo la visita a Singapore, tra le modernità dei suoi grattacieli, che la giungla tenta invano di conquistare, e la tradizione dei quartieri cinesi, indiani e musulmani, passiamo all'isola dove gli abitanti di Singapore vanno a rilassarsi. Anche se, come ricorda Nicoletta, una volta le cose erano un po' diverse. Molto bello è l'isola di Sentosa, che è attaccata a Singapore, dove c'è un forte costruito dagli inglesi per difendere il porto, che è uno dei è il secondo al mondo dopo Rotterdam. È un porto immenso, veramente spettacolare, e in questo forte, costruito nel 1879, si possono sentire proprio gli odori, i rumori, le registrazioni, gli ordini secchi dei soldati di allora. E c'è una lettera molto bella di un soldato a sua madre che dice: sono arrivato nell'isola della morte, e racconta proprio questo, comunque la vita di stenti, di fatica che facevano i soldati. Il rumore delle pagine del suo taccuino accompagna la nostra chiacchierata. È là che va a ritrovare di volta in volta lo spunto per parlare del viaggio. Passiamo ora da Singapore a Kuala Lumpur, la città che è nata da niente e in 150 anni dalla sua fondazione è diventata una ruggente tigre asiatica, dove la modernità, fortunatamente, non ha oscurato la tradizione. Anche se per noi occidentali questo significa trovarsi di fronte a un mondo più misterioso e meno comprensibile per certi versi. Passando da Singapore a Kuala Lumpur, che è la capitale della Malesia, si ha proprio un cambiamento grande, nel senso che si comincia a entrare in un mondo per noi occidentali più estraneo. Allora, le donne sono, subito si vede entrando all'aeroporto, uscendo dall'aeroporto, le donne sono tutte velate, i cartelli sono scritti esclusivamente in arabo malese, quindi per uno straniero è veramente difficile orientarsi. In un taxi c'erano soltanto canzoni arabe, il taxista parlava solo in arabo, per cui ci si esprimeva a gesti. Ci sono i cartelli coi teschi per scoraggiare lo spaccio di droga, per cui proprio il cartello col teschio, le ossa incrociate, e quindi sicuramente è un mondo più misterioso, più indecifrabile per noi. Teschi per scoraggiare lo spaccio di droga. Sembra decisamente ingenua come iconografia, ma ha ragione Nicoletta, certe cose sono distanti da noi. Da Kuala Lumpur siamo andati a Taman Negara, che è il parco nazionale nella giungla presso il Borneo, ed è uno dei polmoni verdi più grandi, diciamo, dopo l'Amazzonia. E qui si fanno, ecco, è spettacolare perché si fanno 4 ore di navigazione nella giungla su canoe dove si sta seduti sul fondo, e si fanno proprio 4 ore di giungla ininterrotta. Mentre mi parla, sfoglia il taccuino comprato a Singapore, dove ha annotato le sue sensazioni. Non vedo l'ora che mi legga qualcosa scritto proprio allora, durante il viaggio, quando le emozioni erano vivide e non ancora filtrate dal ricordo. Nell'attesa cerco anch'io di rilassarmi, rifugiandomi nella giungla che mi ha appena descritto. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Malesia con Nicoletta Bortolotti. Siamo passati dal treno che Nicoletta Bortolotti prende ogni mattina per andare al lavoro e dove approfitta per scrivere, alla magia della Malesia. Quel viaggio di cui mi sta parlando Nicoletta è stato meticolosamente descritto da lei su un taccuino che ora sfoglia per far riemergere i ricordi. Ma eccoci alla lettura di alcune di quelle pagine scritte proprio allora. Non abbiamo mai sporcato in tante gite in montagna gli scarponi da trekking come qui in mezzo al fango. In certi punti c'erano dei ponti sull'acqua del fiume che entrava nella foresta in piccoli meandri costituiti da una sola asse di legno dove dovevi stare appeso a una corda in equilibrio. In certi altri dovevi per forza guadare il fiume entrando nell'acqua con gli scarponi. Per tutto il tragitto nel fitto di alberi giganteschi, liane e palme, ci ha accompagnato il concerto tipico della giungla, il cricri delle cicale, i gridi di uccelli, trilli, versi strani. Gli insetti, per quanto c'erano di quei ragni che erano veramente enormi, non ci hanno dato fastidio, di zanzare ne abbiamo trovate meno che a Milano. In compenso abbiamo visto dei lunghi e colorati millepiedi e delle specie particolari di scoiattoli. Ma le grandi protagoniste sono state le sanguisughe. Sanguisughe? Aiuto, siamo nel Taman Negara, che è il parco nazionale nella giungla presso il Borneo. Vediamo come prosegue l'avventura per Nicoletta. Ecco, a questo punto c'è un po' l'aspetto più splatter di questo viaggio, perché c'era in mezzo alla giungla una specie di osservatorio per gli uccelli, una cosa da guerra del Vietnam, tipo tutto mezzo distrutto, con le assi, con una ciotola di cibo tipo pietrificato. Siamo saliti e a un certo punto io, perché eravamo tutti comunque coi pantaloni lunghi, con le calze lunghe, mi alzo i pantaloni e vedo la calza completamente sporca di sangue e poi vedo nella caviglia piena di sanguisughe tutte attaccate con le codine che si muovevano, cioè uno schifo pazzesco. Dopo la persona che era con me le ha staccate tutte col coltellino e dopo guardando abbiamo in pratica tutta la foresta, tutti i sentieri sono pieni di sanguisughe, appena ti fermi un attimo con lo scarpone proprio spuntano su dal le foglie, no? Con tutte le codine e cominciano ad arrampicartisi sopra. Per cui, infatti, nelle guide che c'è scritto di mettere i pantaloni dentro gli scarponi è assolutamente indispensabile. Nicoletta mi parla adesso dei villaggi degli Orang Asli. Orang Asli, dal malese, uomini delle origini. Vivono nella foresta, anche se con un po' di contraddizioni. In ogni tenda o riparo c'è una famiglia. I bambini sono nudi o seminudi e le donne hanno il seno scoperto. Hanno i capelli corti e crespi, sono schivi ma gentili. Le donne non parlano con gli stranieri e non salutano. Vivono di quello che dà loro la foresta e hanno contatti con il parco. Con le canoe a motore trasportano ciò che occorre loro. Per esempio il registratore o il televisore. E come dire, colpisce il contrasto tra queste capanne in mezzo alla foresta fatte di frasche col televisore, che uno si chiede anche come fanno ci saranno dei collegamenti, ma insomma non si capisce. Il taccuino è sempre nelle mani della mia compagna di viaggio, che è pronta per leggermi altri estratti. La Tabercó era la meta dove dovevamo arrivare. Non ce la facevamo più, non avevamo portato abbastanza acqua e la borraccia era terminata, niente cibo. Il ritorno sembrava infinito, caldo, sete e fatica. A un chilometro prima dell'arrivo ci siamo fermati in un punto del fiume dove era indicato che si poteva fare il bagno. Il fiume era completamente immerso nella vegetazione della giungla, formava alte pareti di verde cascante, sembrava un Eden. Abbiamo fatto il bagno stando attenti alla corrente. L'acqua era gialla, limacciosa, ma molto fresca. Sanguisughe non ce n'erano. Non sembrava vero di fare il bagno nel cuore della foresta tropicale, senza nessuno. A perdita d'occhio si vedeva l'acqua sovrastata da montagne di verde. Ecco, questa è stata proprio un'esperienza molto forte, molto bella. Il bagno nel cuore della foresta tropicale, imperdibile. Ma torniamo per un attimo agli Orang Asli. Ecco, a proposito degli Orang Asli e dei bambini, perché poi siamo andati in un'isola a Tioman, che è un'isola corallina, dove ci sono le palafitte, cioè la gente vive in palafitte, e ci sono scuole fatte su palafitte dove i bambini fanno i compiti, un po' escono. E ecco, sicuramente sono poveri di beni materiali, hanno molto meno di noi, però sono un popolo molto dignitoso che non viene assolutamente a chiedere l'elemosina, a chiedere niente. Sono come orgogliosi della loro cultura millenaria e viene da chiedere, quando si parla di povertà, di quale povertà si parla, perché questi bambini comunque erano a scuola ma poi uscivano, erano tutti in gruppo, avevano un'aria proprio allegra. E penso ai nostri bambini che fanno l'orario da operai dalle 8 alle 5 a scuola, casa, macchina, Nintendo, non so alla fine quale sia la povertà. Poi è vero che sono discorsi che molto difficili, delicati, e non si può estremizzare, però a volte viene un po' da relativizzare, ecco, e forse questo è anche il bello di viaggiare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Malesia con Nicoletta Bortolotti. La Malesia è qualcosa di più vicino di quella descritta nei libri di Salgari. Forse solo per il fatto che Nicoletta Bortolotti, che oggi è qui con noi, ce ne sta parlando attraverso i suoi ricordi, ma anche attraverso gli appunti presi nel suo taccuino. Le chiedo di continuare a parlarmi ancora un po' della gente. Allora, le persone sono molto dignitose, appunto, pur povere di beni materiali, non verranno mai a chiedere soldi o elemosina ai turisti, sono molto orgogliose della loro cultura e della loro civiltà. E per esempio, ci siamo trovati a Kuala Lumpur a dover a prendere un taxi che però era fuori perché lì hanno degli orari consentiti. E è passato un ragazzo con la macchina, noi non trovavamo il taxi, dovevamo andare dall'altra parte della città, e ci ha portati lui in macchina, questo parlava in inglese, un ragazzo giovane simpatico, e tra l'altro normalmente noi avevamo anche un po' paura, nel senso che non sapevamo poi che, insomma, però siamo saliti su questa macchina con fiducia e questa persona ci ha portato nel posto di destinazione, e quando noi abbiamo insistito per dargli qualcosa per pagarlo non ha voluto assolutamente niente, ci ha dato l'indirizzo, ha detto il regalo più bello è che rimaniamo in contatto, che possiamo telefonarci, magari un giorno verrò in Italia. Questo è veramente lo spirito che hanno loro, e davvero è una grande lezione, cioè anche per noi, proprio di civiltà, di ospitalità. Lezione di civiltà. Sembra non essere l'unica da quando siamo partiti. Dopo quindi la permanenza a Tammanegara, siamo andati su un'isola corallina bellissima che si chiama Tioman, che è una delle più famose della Malesia. E ci siamo fermati lì una settimana e lì, ecco, è un posto bello, con l'isola è completamente coperta dalla giungla, ci sono spiagge veramente di farina bianca, e con la barca abbiamo fatto delle gite con dove abbiamo visto pesci meravigliosi, murene, squaletti, insomma, si vede un po' di tutto. Ecco, e questo è stato una degna conclusione, diciamo, di questa meravigliosa vacanza. Manca un cenno al cibo. Non possiamo lasciarci senza che Nicoletta ci abbia fatto assaggiare qualcosa di malese. Devo dire che abbiamo anche mangiato bene, la cucina è tutta piccantissima. Ecco, una cosa curiosa, a Singapore, a Kuala Lumpur, non usano le forchette, le posate, per cui bisogna richiederle, per cui magari portano piatti buonissimi, non so, una sera a Singapore abbiamo mangiato proprio in riva al fiume che attraversa la città, dove ci sono tutti i ristorantini animatissimi, indiani, cinesi, e abbiamo mangiato gamberi in foglie di banano piuttosto che il nasi goreng, il nasi kampur, che sono un tipo di riso col pollo, tutto piccantissimo, però senza posate, cioè, per cui è strano, perché in una città così, con questi, così internazionale, insomma, però si sente tanto proprio l'Oriente, ecco, si sente veramente di essere dall'altra parte del mondo. Infatti a Singapore siamo andati nel punto proprio più a sud-est del continente asiatico, c'è proprio una pietra dove c'è questa iscrizione. Esperienza sorprendente questa fatta con Nicoletta Bortolotti in Malesia. Bella a partire dal viaggio per arrivarci, come sottolinea lei. È bello anche, vabbè, il viaggio in aereo, sono 12 ore di aereo, ed è curioso perché comunque si vede tutta la terra sfilare in poche ore, e quindi si passa sopra l'Iran e si riesce anche da 12.000 metri d'altezza, si vede il deserto rosso dell'Iran, poi le distese di sabbia, poi davvero è anche molto bella il viaggio in aereo. Stiamo per salutare la Malesia. È un arrivederci però più che un addio, anche perché, come ci ha insegnato Nicoletta, basta rifugiarsi nel ricordo di questi posti che subito l'energia che ci hanno dato ritorna a fluire in noi. Mi è rimasto nel cuore, e ogni volta che mi sento magari agitata per qualche problema o delusa o triste, quando mi ricordo vado a rifugiarmi in questa foresta per cercare di trarre energia, cioè di trarre quell'energia che mi aveva dato un tempo. Per chiudere, Nicoletta aggiunge nuova nostalgia al viaggio, perché quando decidi di partire la nostalgia è uno degli ingredienti fondamentali. Come dice Saint-Exupéry, se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare, vasto e infinito. Nicoletta, quanto è stato emozionante rileggere quel taccuino? Emozionante, anche perché accanto ai ricordi di viaggio, quindi alla nostalgia proprio che mi ha procurato, siccome questo viaggio l'ho fatto un po' di anni fa, c'è stata anche la nostalgia della giovinezza, cioè proprio di quelle esperienze che fai quando sei giovane, quando non hai ancora una famiglia con i bambini, e per cui è stato un viaggio anche per me nel tempo a riscoprire una parte di me, cioè una parte che a cui forse adesso non do abbastanza spazio, ecco, quella parte avventurosa che comunque ha voglia ancora di esplorare il mondo. E invece ora, come dire, viene un po' troppo chiusa e incanalata appunto nel tragitto quotidiano treno, casa, lavoro, dove alla fine la fantasia muore un po' se non la si tiene viva, ecco. Sì, quindi per cui mi ha creato parecchia emozione e anche un po' di nostalgia. Ora Nicoletta Bortolotti è in libreria con E qualcosa rimane, edito da Frassinelli.